A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, due capitoli nella puntata di oggi, due capitoli di massima. Uno affidato a Marco Bellinazzi, il nostro esperto del Sole 24 Ore, di genere calcio economico finanziario. Uno tecnico-tattico che chiamerà invece in causa Giovanni Galeone a proposito del suo allievo prediletto Allegri e di come il Milan potrà, il Milan di Ibrahimovic e Robinho che si sono aggiunti agli altri, potrà affrontare la stagione. Cominciamo dai quadrini. Bentornato Marco. Buon pomeriggio. Sulla Gazzetta di stamane Platini è intervenuto, io credo, a ribacchettare un pochino le società per quanto riguarda ingaggi e contratti. Poi diciamo che è stato abbastanza tirato per la giacchetta a farlo, no? Perché la Gazzetta ha pubblicato in questi giorni un prospetto degli ingaggi, per l'appunto dei contratti rinnovati dalle principali società italiane, e si ricava da queste cifre, di cui poi tu ci dirai la tua opinione sull'attendibilità o meno, si ricava comunque che la tendenza al ribasso degli ingaggi, dei contratti, e cioè del cosiddetto costo del lavoro, che era uno dei capisaldi di questa svolta economico-finanziaria voluta dall'UEFA, non si sta realizzando. Si sta realizzando meno lentamente di quanto dovrebbe, semplicemente perché bisogna considerare che ci sono poi contratti pluriannali e quindi non è facile incidere su quelli, se solo pensiamo per esempio a quelli del Milan. In ogni caso le indicazioni e le raccomandazioni di Michel Platini vanno considerate positivamente, sono un richiamo alla morigeratezza dei costi nelle società di calcio. Io direi che è meno preoccupante la situazione rispetto a qualche anno fa, perché tenendo da parte Milan e Inter e guardando agli ultimi bilanci delle altre squadre che militano in Serie A, la situazione non è poi così preoccupante. Voglio dire, c'è una tendenza a quel pareggio tendenziale fra ricavi e uscite, che il nuovo mantra del fair play finanziaria, certo, insomma, predica per il calcio italiano e non solo. A mio avviso, insomma, vanno fatte una serie di valutazioni per inquadrare bene il problema, prescindendo, insomma, da quelle di ordine morale o etico sulle sproporzioni che esistono negli ingaggi. Questo è evidente, perché sennò io sarei subito, dopo aver dato un'occhiata a queste tabelle, sarei subito costretto a domandarti un'opinione, ma insomma a te come a chiunque, credo, non occorre essere esperti economico-finanziari, basterebbe esserlo di sport, per dire se Ibrahimovic guadagna 9 milioni l'anno dichiarati, e poi parliamo dei premi e dei bonus a parte, e con questi 9 milioni l'anno il Cesena paga tutta l'intera rosa, anzi ne risparmia, perché il totale del monte stipendi, ingaggi, contratti del Cesena è 8,3, e stiamo parlando di due squadre che sabato si affrontano. Beh, insomma, Davide Golia, mi pare che la forbice, anziché ridursi, si sia ampliata ancora. E aggiungo che l'anno scorso, nell'era Mourinho, questa sproporzione era ancora più palese, perché in quel caso era lo stipendio di un allenatore, quindi di qualcuno che non scendeva, sì, nemmeno in campo, a coprire gli ingaggi di intere squadre, insomma, della media bassa classifica. Ricordo che l'ingaggio di Mourinho, insomma, eccedeva di qualche milione di euro quello di tutti i calciatori del Chievo, per esempio. Evidentemente queste sproporzioni esistono, il mercato che le ha determinate, quindi, insomma, ripeto, prescindiamo da valutazioni di ordine morale, restiamo a quelle economiche. È giusto che queste sproporzioni permangano, o è necessario fare qualcosa? Io credo che il calcio italiano abbia davanti due modelli in questo momento. Uno è il calcio spagnolo, che è un modello a mio avviso perdente, in cui esistono due squadre che dominano finanziariamente e sportivamente il campionato, e la terza arriva a 20-30 punti di distacco. Certo. C'è un altro modello invece, che a mio avviso è quello vincente, cioè quello tedesco, un campionato in cui c'è una maggiore proporzione economica, di forza economica tra vari, cioè, club. Una sola squadra leader praticamente sempre presente nelle prime posizioni, che è il Bayern di Monaco, ma a parte che non è detto che vinca, perché ha vinto l'altro anno, ma erano anni che non vinceva. Poi c'è un'alternanza al vertice e un numero di squadre, almeno 6, 7, 8, che ogni anno possono vincere la Bundesliga. Esattamente, c'è maggiore equilibrio, che significa maggiore interesse, che significa stadi pieni, televisioni che in ogni caso pagano un prodotto che è apprezzabile, e di conseguenza si registra un interesse crescente verso quel campionato. Non a caso appunto è destinato alla Germania a rubarci anche un posto, insomma, per la prossima Champions League, certo, per i famosi parametri UEFA. Quindi la scelta è quella di seguire, la scelta giusta a mio avviso sarebbe quella di seguire questo modello teutonico anche dal punto di vista sportivo, e gli strumenti ci sono. Ecco, ma gli strumenti ci sono, ma la nostra Lega, adesso rappresentata da un ex direttore generale di Confindustria, tra l'altro, cioè guidata da un ex, cioè, sta andando a parer tuo in questa direzione o sta invece andando verso la deriva spagnola da questo punto di vista? No, la domanda è giusta, va a mio avviso scissa in due parti. Ci sono strumenti, diciamo, macroeconomici, e cioè il fair play finanziario, che imporrà una sostanziale parificazione, ripetiamolo, dei costi e dei ricavi, e quindi in qualche modo certe spese folli dovranno essere eliminate. D'altro canto ci sono i diritti televisivi che garantiscono un miliardo all'anno alla Serie A, e nelle varie trattative che ci saranno per i vari rinnovi di anno in anno un parametro importante sarà quello dei risultati sportivi conseguiti. Quindi il Cesena, ottenendo buoni risultati sportivi, potrà aumentare progressivamente la propria quota di diritti TV, evidentemente, e quindi acquistare anche giocatori di maggior peso. Gli strumenti per stringere questa forbice, se non altro ci sono, e questo mi pare un primo dato incoraggiante. Ti stoppo un attimo perché andiamo avanti ovviamente sull'argomento dopo aver sentito come va sulle strade. A tempo di sport. Gli strumenti per un calcio, non dico più equo, perché non mettiamolo, e nemmeno solidale, non mettiamolo in termini etici, perché siamo lontanissimi, caro Marco. Però gli strumenti, tu dici che ci sono, e poco alla volta, insomma, potrebbero addirittura farsi strada. Diciamo, in una prospettiva di medio termine, potrebbero far sentire questa esigenza di riequilibrio un po' meno, nel senso appunto di garantire una migliore distribuzione delle risorse che il sistema calcio guadagna a tutte le squadre in maniera meno appunto diseguale di quanto non avvenga oggi. Nello scorso appuntamento, esattamente giovedì passato, ci hai raccontato, insomma, ci hai spiegato questo nuovo meccanismo in base a cui il calciomercato non si è più fondato in quest'ultima stagione sull'acquisto, la cessione, il prestito, la comproprietà, insomma le formule a cui ci eravamo abituati negli anni, ma ha escogitato o comunque ha istituzionalizzato quasi questo nuovo prestito non più con diritto ma con dovere di riscatto. Adesso mi pare che da un punto di vista contrattuale, più o meno nella stessa misura, stia prendendo piede una formula che da un lato io trovo saggia e che già era stata applicata in passato soprattutto da parte delle società più illuminate, ma che però si presta a qualche riflessione, se non altro curiosità, che è quella del fisso garantito, chiamiamolo, del contratto, che poi prevede una serie più o meno ampia di bonus quanto più è ampia la fama del giocatore in questione. Come funziona esattamente? Anche Platini oggi l'ha apprezzata questa formula, e credo che vada salutata positivamente. Bisogna fare un passo indietro. A giugno è scaduto il contratto collettivo dei calciatori, perché sembra strano, ma anche i calciatori hanno un contratto collettivo, hanno un sindacato, perché sono lavoratori dipendenti. Questo contratto, visto che ci sono scisse la Lega di Serie A e la Lega di Serie B, e quindi è subentrato un nuovo soggetto contrattuale, non è stato rinnovato. Probabilmente lo sarà nei prossimi mesi. Lunedì è previsto un incontro fra la Lega di Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori, appunto per riscrivere le regole contrattuali che valgono, ricordiamolo, non solo per i campioni ma anche per i giocatori che militano nei campionati inferiori, e quindi dovrebbe garantire soprattutto questi ultimi, e dovranno essere riscritte alla luce di quello che è la nuova filosofia che la Lega sta adottando, ed è quella di rendere in qualche modo i calciatori sempre meno dipendenti e sempre più lavoratori autonomi, e quindi attribuendo agli stessi calciatori una quota del rischio d'impresa che hanno le società. Questo in che modo? Appunto spalmando sul contratto, sulla percentuale contrattuale, tutta una serie di bonus e di premi legati alle prestazioni dei calciatori, oltre che alle eventuali vittorie in campionato piuttosto che nelle altre competizioni. Una formula che anche in passato veniva adottata, ma in passato l'accordo collettivo nazionale prevedeva che la quota, diciamo, flessibile dei compensi potesse essere molto limitata, tra il 10 e il 20% grosso modo. L'intenzione della Lega di Serie A è quella invece di aumentare questa quota fino al 40-50%. Ecco perché, diciamo, negli ingaggi ridotti di alcuni campioni che sono stati acquistati recentemente in Italia, ridotti rispetto a quanto guadagnavano l'anno prima, insomma, ora fuori di metafora, mi riferisco a Ibrahimovic, in particolare, potrebbe essere stata, come dire, comunicata una quota del compenso, quella fissa degli 8 milioni, evidentemente la parte restante, i 4-5 milioni che Ibrahimovic guadagnava al Barcellona, potrebbero essere invece legati appunto a una serie di scommesse che la società ha fatto con il calciatore, legate proprio alle sue prestazioni o a quelle della squadra. Tassati come questi bonus? Te lo domando non certamente per demagogia o per secondo me curiosità legittima, perché insomma, già stiamo parlando di cifre demenziali, se no? O comunque, io uso questo aggettivo, poi può essere giudicato eccessivo, ma per me è così, lo rivendico. Allora, dato che la tassazione sugli 8 milioni di euro di contratto mi pare superi il 50%, 45, insomma, siamo lì, insomma. Siamo vicini. Considera anche i contributi previdenziali, anche se sono veramente ridicoli per i calciatori, viste le somme di cui parliamo, insomma, arriviamo intorno al 47-48 di... Per la parte, diciamo, strettamente contrattuale. Per la parte eventuale, per le varie ed eventuali dei bonus? Ecco, no, è una domanda legittima, mi sono posto anch'io cercando di capire come mai c'è questo interesse. Diciamo che fondamentalmente, essendo i calciatori lavoratori dipendenti, tutto ciò che viene assegnato loro in termini di compenso dalla società, sia di fisso che di flessibile, è tassato con la stessa aliquota. Quindi dal punto di vista fiscale le squadre dovrebbero risparmiare nulla o quasi, visto che sono, come è noto, le squadre, insomma, a pagare le imposte dei calciatori che contrattano i loro ingaggi al netto. Il risparmio evidentemente per la società è quello di non pagare comunque ingenti compensi nel caso in cui l'annata vada male. Comunque ha un senso. Un'altra, mi pare un'altra, non dico battaglia, ma insomma un altro fronte che le società, mi pare di capire, hanno aperto seriamente in questa vertenza, e se ne parlerà soprattutto lunedì con l'AIC, è quella sul rifiuto al trasferimento. E cioè la società dice, se io società ti riconosco la stessa cifra che ti davo io, te la faccio riconoscere dalla tua nuova società di appartenenza, tu non hai più il diritto di rifiutare il trasferimento. Su che presupposti giuridici si può basare? È un capitolo molto interessante. Nella piattaforma preparata dalla Lega di Serie A nella riunione di ieri, appunto, questo è un elemento centrale e qualificante, assolutamente, sempre nell'ottica che dicevo prima, nella nuova filosofia di spostare la prospettiva dei calciatori sul lavoro autonomo più che su quello dipendente. È chiaro che se ragioniamo in termini appunto giuslavoristici, imporre un trasferimento per esempio dall'Italia alla Turchia, mi riferisco al caso di Batista della Roma, che un po' ha scatenato queste polemiche, significa, insomma, imporre un trasferimento che può violare le prerogative, le aspettative, le esigenze del calciatore, anche se parliamo appunto di un lavoratore molto qualificato, certo, e molto ben molto remunerato. Si dovrà discutere molto, effettivamente c'è l'interesse patrimoniale da difendere, che è quello della società, che si vede immobilizzato un patrimonio, e nel caso di Battista la Roma aveva bisogno di quei soldi per effettuare una serie di operazioni, e poi è stato necessario, come abbiamo raccontato la scorsa settimana, chiamare in causa Unicredit per far sì che questi acquisti potessero essere realizzati. Chiaramente c'è il profilo possibile del mobbing che viene evocato e accostato a queste vicende. Se ricordiamo quello che è accaduto lo scorso anno nella Lazio per i casi di Pandev e Ledesma, sì, che hanno avuto esiti diversi. Pandev è stato svincolato e gli è stato riconosciuto quasi di essere stato appunto mobbizzato tra virgolette dalla Lazio, insomma si è liberato da quel contratto e si è casato con l'Inter, e comunque la Lazio ha subito una perdita patrimoniale, cosa che non è accaduta nel caso Ledesma. Ma sono tutte situazioni limite che, in quest'ottica di esasperazione nella competizione anche economica fra i club, di tutela del patrimonio, la Lazio tra l'altro è una società quotata e quindi, certo, evidentemente la questione è ancora più delicata, è chiaro che un punto di equilibrio tra calciatori e squadre dovrà essere trovato. La Lega si sta sforzando, giustamente, la Lega e l'associazione dei calciatori devono sforzarsi di trovare questo punto di equilibrio. Secondo Federico, ci scrive, una delle tante mail arrivate, dice: no, non è vero, i bonus sono tassati solo al 27%. Non... Beh, l'obiezione non è accolta, non è peregrina. Il problema reale quando si parla di queste questioni è che i contratti, come dire, dovrebbero essere pubblici o dovrebbe essere possibile verificare effettivamente di che tipo di clausole si tratta. Quindi diciamo, noi ragioniamo sulla base di quello che riusciamo ad apprendere e quindi i ragionamenti si basano su valutazioni piuttosto generiche. Se poi entriamo nel dettaglio si può dire tanto. Certo. In linea di massima dobbiamo considerare una situazione normale in cui sono previsti i vecchi bonus, i vecchi premi, e quindi tassati, sono solo tassati, diciamo, come quanto la parte fissa. Concorrono a fare. Però ci può essere anche questa opzione. Insomma, bisognerebbe poi leggere, sarei molto curioso di leggere il contratto di Ibrahimovic. Ci arriveremo prima o poi, no? Chissà che non ci si arrivi. Sentirei velocemente un ascoltatore da Udine. Oscar, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo intervenire a proposito del primo argomento che avete affrontato, proprio sentivo prima, no? Sì, sono pienamente d'accordo con il fatto di ridurre il gap tra le squadre più potenti e quello meno, e infatti volevo portare l'esempio, se vi ricordate, di come è bello il calcio quando riescono a vincere anche i piccoli, come il Verona di Elkier, o ricordo l'Udinese di Zaccheroni che arrivò terza a 3 punti dalla prima, insomma. Cioè, voglio dire, i meriti sportivi dovrebbero essere la cosa più importante nello sport e non l'economia, anche se so che questo è un paradosso proprio ai tempi di oggi, diciamo. Però se andiamo verso quella strada lì, forse il calcio in qualche modo tornerà a essere uno sport, perché adesso come adesso sinceramente è inguardabile. Ha detto bene Marco Bellinazzo all'inizio, ci sono due modelli oggi, due linee di tendenza, c'è quello spagnolo e c'è quello tedesco. Se noi riuscissimo a prendere la strada, io ne dubito per non dire che lo escludo, ma riuscissimo a prendere la strada del modello tedesco, avremmo tutti da guadagnarne, comprese le grandi squadre che comunque vivrebbero un campionato più divertente, più seguito, più affollato anche di pubblico, di persone. Difficile da farglielo capire però alle grandi società. Siamo già leggermente oltre, però io in 30 secondi volevo che tu raccontassi o ricordassi a chi lo sa già dei nostri ascoltatori che cosa significa oggi essere un procuratore di grido, no? Visto che stiamo parlando di quattrini, tu prima parlavi di calciatori più indipendenti, che è un altro traguardo ovviamente. Io direi anche le società più indipendenti, soprattutto da questo genere di figura. Io perlomeno metto anche questo, no, in un'utopia complessiva. Com'è andata tra Raiola e Barça? Beh, io devo affidarmi in questo caso a un'agenzia dell'ANSA che ho letto prima di scendere, insomma, in cui si parlava di un ingaggio, anzi di una percentuale del 10% che Raiola aveva ottenuto sul primo anno, ma che otterrà anche sui prossimi anni, per i prossimi anni. anni, per i prossimi anni, che poi non ci saranno di reale contratto a Barcellona, di circa 1 milione all'anno, quindi parliamo, più 100.000 euro per ogni titolo vinto da Barcellona, e parliamo insomma di titoli che Barcellona ha conquistato a man bassa, e quindi insomma per il Barcellona effettivamente l'attività, la prestazione, la mediazione del signor Raiola è stata molto onerosa, buon per lui, ma effettivamente il peso che hanno oggi i procuratori sta diventando insomma molto molto gravoso. Diciamo che gravoso. Per il disturbo di portare Raiola a Barcellona e poi di ritrasferirlo a Milano, sia pure su un'altra sponda, nel giro di un anno, se non per fare i conti in tasca ad alcuno, a chi che sia, ma non siamo lontani dai 10 milioni di euro grosso modo, dobbiamo, per questo disturbo dobbiamo fare chapeau a Raiola, che è riuscito a fare in questa operazione, insomma Barcellona e Milan, se volevano evitare questo esborso, potevano evitarlo, e senza nemmeno il fastidio di doversi troppo allenare, insomma, no? O di dover ottemperare a obblighi di spogliatoio. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie a voi. Chiudiamo anche questa, cioè chiudiamo questa pagina, stiamo per aprire un'altra, dicevo, con Giovanni Galeone dopo l'aggiornamento dei mercati. A tempo di sport. Perfezioniamo il collegamento con Galeone. Sentirei Luigi, ha chiamato dalla Spezia. Buongiorno. Buongiorno Garanzini, complimenti vivissimi per trasmissione e articoli. Grazie. Toni e modi sono veramente eccezionali. Due osservazioni, poi c'è una domanda per Galeone. Io credo che una dei guai del nostro calcio, simile a quello spagnolo, sia il fatto che c'è una sproporzione impressionante nel bacino di tifosi delle squadre principali e delle altre. E se torniamo indietro di 50-60 anni, credo che Inter, Milan, Juventus guidassero la classifica dei tifosi nettamente come oggi, e in questi 60 anni che cosa abbiamo aggiunto? La Roma e il Napoli, più per mobilità interna nazionale che non per meriti sportivi, purtroppo. E per cui credo che noi dovremo soffrire, fino a quando soffriremo di questo, sarà inevitabile che ci siano storture nella composizione della spesa complessiva di costo del lavoro tra lo stipendio di Ibrahimovic e quello di tutto il Chievo, di tutto il Cesena. E potrebbe trovare un sistema tipo NBA in cui chi vince sceglie per ultimo o può spendere meno di chi invece è arrivato ultimo. Mm-hmm. Ma questo credo che sia il libro dei sogni. Sì. Visto che c'è Galeone, che è napoletano, e io sono, anche se non frequentante stadi, grande tifoso del Napoli, ecco, mi piacerebbe avere una valutazione sua, di Galeone, ma anche sua, Garanzini, su quello che potrà fare il Napoli quest'anno. Vediamo se ci arriviamo, Luigi, grazie. Vediamo se ci arriviamo, perché in realtà Galeone c'è per un altro motivo. Io ho letto nei giorni scorsi un'intervista di Alberto Pastorella, per l'appunto, a Giovanni Galeone. Ora, se c'è un tecnico mai banale, questo è certamente lui, e anche in questa occasione mi pare lo abbia confermato, come tra poco scoprirete. Ciao Giovanni. Ciao. Senti, partiamo da lasciamo stare il Napoli per il momento, perché io ero incuriosito dalla tua teoria sul Milan. Allora, partiamo dal fatto che Allegri è cresciuto con te, ti riconosce come padre putativo calcistico, così come tu l'hai sempre riconosciuto come allievo tra i prediletti, se non il prediletto. Ora, nei giorni scorsi, a questa domanda di Alberto Pastorella su come tu faresti giocare il Milan, hai risposto che... Per la grande felicità di Pirlo, non farei giocare Pirlo. Ecco, tanto per non essere banali, no? Una volta di più. No, il discorso è questo: per far giocare i quattro davanti, cioè tre più Ibrahimovic, Robinho, Pato e Ronaldinho, è evidente che i due centrocampisti devono essere due centrocampisti più di contenimento che di regia. Più di fatica, certo. E questo in tutte le squadre, dal Real Madrid quando giocava con Beckham, Raul e Zidane davanti a Ronaldo, un po' tutti giocano così, non c'è niente da fare. Pirlo lo faccio giocare tutta la vita se gioco con tre attaccanti, tre centrocampisti, tutta la vita se gioco con tre centrocampisti, una mezza punta e due attaccanti. Non è il massimo della vita giocare con quattro centrocampisti, perché secondo me è un po' limitato nella sua cosa, però con tre più uno non Pirlo è il meno adatto, insomma, meno adatto. Più Ambrosini Seedorf o non so, Flamini Seedorf, Flamini Ambrosini, Gattuso Boateng magari, ecco, ecco. Cioè qualcuno, cioè, gente di fatica, senza mancargli rispetto, ma insomma gente di fatica, perché gente a supporto del talento davanti, ma i quattro davanti, leggevo, come li schiereresti? Perché anche quello mi ha colpito. Dove sta Pato, per capirci? Robinho, Pato centrale e Ronaldinho a sinistra. Quindi da destra a sinistra Robinho, Pato e... E Ibrahimovic lì davanti. Sì, le vacanze di Natale, quei due di centrocampo le fanno il pomone d'acciaio, immagino. Cosa di Natale, non so, per fare questo tipo di gioco devi fare solamente una cosa, devi fare immediatamente, come si sbaglia la giocata non riesce là davanti, il numero, il colpo, la fantasia eccetera, pressare immediatamente i difensori in maniera da costringerli a buttare via la palla, come fa il Barça, come fa il Barcellona, fanno queste squadre qui. Allora ecco che i quattro dietro giocano molto alti, i due centrocampisti cominciano a impostare immediatamente e facilmente l'azione perché hanno dei punti di riferimento molto precisi e esce fuori un gioco abbastanza spettacolare e bello, questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio alcuno. Secondo te Allegri è orientato in questa direzione o sarà un tantino più prudente? Guarda, lui preferisce giocare con i tre attaccanti o addirittura con, come ha fatto Cagliari, un po' su, no? Con un trequartista alla Snyder, alla Cossu, chi ti pare, e due punte. Però è anche vero che l'idea è intrigante e il ragazzo non si tira dietro di sicuro. Non è il tipo, ha grande personalità, grande carisma e se ci crede io penso che proverà anche questa soluzione. Io parto sempre da questa intervista, ripeto, che ho letto e dato che l'ho trovata molto interessante continuo a ispirarmi e ad attingere. Tu hai detto che molto dipenderà con questi quattro attaccanti dal numero di partite che giocheranno Neste e Thiago Silva. L'anno scorso, se ti ricordi, il Milan è arrivato a un punto, addirittura si parlava di un possibile sorpasso, aggancio e cose del genere, e come è venuto a mancare Nesta, in 3 o 4 domeniche sono trovati a 5, 6, 8, 25 punti, non so neanche quanti, insomma, sono andati dietro in un niente. Nesta d'altronde è l'unico difensore a livello internazionale che abbiamo in Italia, perché io ho letto un'intervista, cioè un articolo pochi giorni fa dell'amico Mura, dove si parlava di carenza di portieri e di ali destre, no? Sì. Ci sono più Causio, i Claudio Sala, i Conti, Maroni, Conti, tutti certo. Qua, Maroni, eccetera, eccetera. Però io dico anche che non ci sono più difensori italiani, perché se andiamo da Paolo Giacinto a Cabrini, ad Agostini, a Maldini, a questi qui a sinistra, a Burnic, a Bergomi, a questi qui, ma io dico dove sono, senza scomodare di Dio il povero Scirea, ma dove sono i Bellugi, i Colvati, i Guarneri, cioè, ma dove sono questi giocatori? Salvatore, non ce n'è più nessuno. L'unico giocatore internazionale che abbiamo noi è Nesta. È rimasto, allora, se Nesta sta bene, Thiago sicuramente rende molto di più, perché è molto bravo, però non è ancora un leader. Nesta ne risente, questa è la mia idea. Certo, la vera razza estinta, su questo hai perfettamente ragione. Estinta, non c'è la vera razza estinta. Prova a pensare che l'Inter gioca con Maicon, Lucio, Samuel e Chivu, e la riserva è Cordova. No, questo... scudetti da 5 anni. Certo, una volta giocava con Bulic, Facchetti, Guarneri e Picchi. E Milan giocava con Trebbi, con David, con Radice, con Salvatore, con Maldini, giocava con questi giocatori qui. Ragazzi, la memoria funziona, la memoria del gare. Senti, dato che hai, in attesa che ti arrivi questa cassa di vini pregiati da Pirlo, no? Che certamente sarà felice. Sì, certamente. Sarà entusiasta di questa tua opinione. Vuoi farti, dato che tu non hai mai lesinato la ricerca di amici, no? Nella tua carriera, vuoi fartene qualcun altro, dando magari anche un consiglio, non so, a Benitez, a Ranieri, a Del Neri? Cioè, tutti questi due, perché i dualismi li hanno tutti, no? Ormai, con queste rose... Del Neri è un amico, io gli voglio molto bene. Boh. Però ti dico una cosa, la Juventus l'anno scorso, guardiamo numeri, 57 gol subiti, sì. 10 convocati in nazionale, 16 partite perse, vuol dire che non perdi con Roma, con Inter, con Juve, vuol dire che hai la possibilità di perdere con tutti. Certo. Va bene, andiamo al mondiale ed è normale anche che tu possa perdere con la Slovacchia, perché è normale, potendo perdere con tutti. Adesso la Juventus, che ha quel lato debole, compra Motta, che io ho avuto e che conosco bene a Udine, quindi un altro che mi vorrà molto bene. Motta ha una bellissima corsa, è bello da vedere, sa andare bene davanti, dribbla, fa anche un bel tiro, interessanti, ha un bel tiro e tutto, ma non sa neanche da che parte si comincia a difendere. Allora, se tu hai una difesa che ha subito 57 gol e ti rinforzi con Motta e De Ceglie, ma io dico che è un po' dura. Questa è la mia idea, certo, per carità. Vabbè, la tua idea, l'anno scorso dissi che la Juventus poteva fare i salti mortali se fosse arrivata ottava. Quest'anno, se arriva settima, insomma, va bene, è già migliorata. Quindi arriveranno certamente, sono in arrivo altri carichi di vino pregiato, ripeto, anche da Torino a questo punto e non soltanto da Pirlo. Fai una cosa, prendi fiato un attimo che noi dobbiamo sentire come va su strade e autostrade e preparatene un paio per almeno per l'Inter e la Roma. Strade e autostrade. A tempo di sport. Allora, torniamo ancora per 2-3 minuti in compagnia, nella piacevolissima, come sempre, compagnia di Giovanni Galeone. L'Inter, Benitez. Allora, la stagione certamente non è partita nel modo migliore. Immagino, poi sarei tu a confermarlo, ma insomma, immagino che 3 vittorie così, la pancia piena, il dopo stress, il rilassamento, insomma, tutte queste cose che saranno anche luoghi comuni, ma insomma, qualcosina nel calcio ha sempre pesato, siano una spiegazione. Ce ne sono altre? No, hanno il loro peso, sicuramente. L'Inter è fortissima, soprattutto fisicamente è molto forte, quindi se viene a mancare fisicamente manca qualcosa. Però ha tanti giocatori di grandissimo valore che può fare fare quello che vuole, ha giocato malissimo, hanno tutti detto di questa grande vittoria, ma giocava da Ibrahimovic contro tutti, insomma, la palla là davanti, questo qui ha avuto un'annata fantastica, l'anno scorso un po' meglio, anche perché ti ripeto, hanno tantissime possibilità di far gol, calci piazzati, con Balotelli, con questa gente qui, insomma l'anno scorso era veramente impressionante. Quest'anno hanno cambiato Balotelli, hanno preso questo Coutinho che a me piace molto, è un ragazzo molto interessante, quindi sì, l'Inter è sempre lì fisica, però è prevedibile, è una squadra che ormai è prevedibile, sono un po' statici da davanti, se riesce a bloccare i sì, penso che possano far fatica anche loro, mentre invece il Milan lo vedi meno controllabile da questo punto di vista, mi pare di capire. Il Milan non è controllabile, non è controllabile. La tecnica di Pato, Ibrahimovic e Robinho, se poi ci si mette anche Ronaldinho a giocare bene, allora dopo sai, è dura veramente, perché hanno soluzioni di tecnica superiori a quelle di Inter, che pure sono molto alte, però sono superiori a quelle del Milan. Certo. Senti, dammi ancora un'idea sulla Roma, perché io faccio molta fatica a capire, per esempio, un'operazione come quella di Adriano, in una squadra appunto che già qualche variabile salutista, direi, c'era davanti, no? Perché non credo che giocherà poi molto Adriano, no, questa è la mia idea. Sai, hanno dei giocatori bravissimi, Menezes è molto molto bravo, più bravo di quello che ha fatto vedere finora. Fino adesso. È molto bravo. Poi c'è sempre Totti che se sta bene fa la differenza, c'è Vucinic, adesso hanno Buriello, insomma hanno una ottima squadra, se comincia De Rossi a giocare veramente come ai tempi, ai tempi di Cappello, insomma, diventa veramente una delle papabili. De Rossi come ai bei tempi? Se riesce a vincere però... gran campionato lo può fare. Senti, l'ultima domanda era per accontentare questo tifoso del Napoli di prima, che non è l'unico, perché poi tu hai lasciato affetti particolari a Napoli, essendo anche un napoletano d'origine, poi trapiantato in Friuli. E a Napoli fanno bene a illudersi o è meglio invece che stiano coi piedi per terra? Beh, illudersi, non per il primo, secondo, terzo o quarto posto è dura, penso che sia veramente dura, quarti sarebbe già un bel andare, però il Napoli è migliorato molto, ha fatto dei colpi come quello di Cavani, importante sicuramente, è una buona squadra, io non la vedo benissimo ancora dietro, l'ho vista l'anno scorso anche in un momento tra parentesi molto buono contro l'Udinese a Udine, e la difesa mi lasciava molto perplesso. Ancora un pochino perplesso. Sì. Ancora da grandissima squadra, però come dicevo prima, trovare difensori non è poi così facile. È diventata l'Araba Fenice nel Palermo, nostro. Palermo però è una buona squadra, il Genoa, cioè le medie squadre sono migliorate quasi tutte. Quindi sarà un campionato, a mio avviso, se non lo rendono monotono, dovrebbe dare qualcosa di bello, dai. Qualche soddisfazione in più. Senti, è bello il calcio visto dal mare di Stintino, eh? Una volta qui, 30 anni fa, quando sono approdato qui, era un paradiso, adesso un po' meno, perché purtroppo i delinquenti ci sono dappertutto. Però. Sì, però. Un abbraccio, Giovanni. Grazie a voi. A presto. Vi ho detto all'inizio, mai banale, poi lo sapete, perché insomma, Galeone non è un inedito, è però ogni volta una, a parer mio perlomeno, una riscoperta interessante, se non altro, che può diventare in certi passaggi anche deliziosa. Questa è sempre un'opinione, ma che da qualche messaggio vostro mi pare condivisa. Sfilata di stelle del calcio e il Bologna dello Scudetto 64 per ricordare Giacomino Bulgarelli, a un anno e mezzo dalla scomparsa. Succederà lunedì a San Pietro in Casale nel Bolognese. Tra gli altri ci saranno, oltre a tutto il Bologna che vinse lo Scudetto nel 64 sotto la regia per l'appunto di Giacomino Bulgarelli, ci saranno Fabio Capello, ci sarà Gianni Rivera, ci saranno Zoff, Corso, Mazzola, Lodetti, Pecci, Giuliano, De Sisti, Beppe Signori, l'attuale capitano del Bologna Di Vaio. Questo Bulgarelli Day si chiamerà Ciao Giacumen, e in questa cittadina della Bassa, in cui il centrocampista del Bologna e dell'Italia è vissuto per 14 anni, gli sarà intitolato il centro sportivo comunale. Nel pomeriggio ci sarà una cerimonia che culminerà in una serie di partite amichevole dirette dall'arbitro Luigi Agnolin, un altro degli amici storici di Bulgarelli. Poi c'è da dare il benvenuto a Chiara Bergnoli, che è nata stanotte a Vicenza. Allora mi ha scritto un ascoltatore che stamattina alle 4:30, mentre in auto correva verso l'ospedale di Vicenza, dove stava per nascere la prima figlia, Chiara ha sentito la replica notturna di A Tempo di Sport. Lui ignorava, facendo vita sana evidentemente, ignorava che di notte tra le 4 e le 5 andava in onda questa replica, e quindi ha scritto dicendo che il lieto evento è stato accompagnato da questa cosa. Grazie della cosa e benvenuta soprattutto, ripeto, alla piccola Chiara. Mancano un paio di minuti alla conclusione, sì, quindi io direi di far partire la sigletta di questi tempi. Credo che sia arrivata oggi proprio, o forse domani alla conclusione. Sentiamo la sigla. Sport e motori. Come ormai sapete, certamente nessuna penalizzazione per quel sorpasso di Alonso su Massa in Germania, $100,000. Sommato è un modo discreto di cavarsela. Il commento a questa sentenza del Consiglio Mondiale di Parigi è affidato a Enrico Gelpi, presidente dell'ACI e vicepresidente della FIA. C'era il rischio di ulteriore penalizzazione, che invece è stato scongiurato. Non ci sono state ulteriori penalizzazioni. Sono stati sentiti ovviamente i rappresentanti della Ferrari, sono stati sentiti i legali della FIA. L'orientamento è stato quello di sostenere la decisione che avevano preso i commissari sportivi al termine della gara. Secondo me non c'era nessuna responsabilità, cioè non c'era stato un ordine di scuderia, era stata semplicemente una segnalazione, un'informazione che il box aveva dato a Massa che Alonso era più veloce di lui. Infatti ho chiesto che questa norma venisse valutata anche la stessa opportunità di mantenerla. E comunque la necessità di chiarirla, perché così com'è lascia adito a interpretazioni troppo diverse, quindi casi simili che possono essere giudicati in modo diverso, quindi questo non fa bene alla Formula 1 e non fa bene allo sport in generale. Sì, certo, precisare meglio cosa si intende per ordine di scuderie, perché il confine tra l'ordine di scuderia e una strategia di gara che è pienamente legittima oggi non è chiaro. Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.